Grazia. Graziano, ci sei? E beh, gufo, che fine hai fatto? Tu carie, tu carie. Tu carie. Beh, e beh, Brittella. Vista la fotografia, ti ci ho mandato le mani. Ah, sì, sì, sì. Lo conosco, ti ho anche risposto. Ma tu lo conosci, veniva sempre lì a Caracas. E ha anche vinto, non solo. Ha vinto il viaggio? Ehi, viaggio per due persone a Dubai. Ti immaginerci, un macuga. Allora, come non ci sono le truppe in Cina? Tu lo sai? Sì, sì. Qualche dai. Senza che Brittella lo sa che non bisogna giorni che in Cina. Andiamo su Mao, vai forza. Sì, se perché se non c'è Mao, aiuta. Vabbè, vedi, molte volte va di cazzati, vedi. Comunque ha vinto un viaggio. Oh, non mi sarei voluto quanto è, due, per carità. Quando l'ho visto io mi sono messo solo a ridere. Ma come ti ci fa di andare? E comunque è perché è passato nella scuderia di Scotti, che è praticamente nello stesso programma, però non ci sono soldi. Cazzo, se entra nell'altro sistema che vince 100.000 euro, capito? Ehi, ma è possibile, dai, amore, che era incozzato, dai, Cla. Ma per me è incozzato perché andare in quel programma così, scelto così, c'ha santo in paradiso. E dire quelle due stronzate, per me è c'ha santo in paradiso. Non è facile mi entrare in quel programma, ma in tutti i programmi, capito? È intanto uscito in televisione, visto? E ora diventa VIP. VIP però diventa. E vedi tu, che lo chiamano anche a fare altre trasmissioni. E da lì si inizia. Una volta che metti la faccia nello schermo, cominciano le cose belle. Cosa pensi? La gigante imbecilli. Hanno cominciato così a fare i gomici e la buia ne... Ma claro, io ti dico che quando fanno queste cose io penso su 10, 20, 30 persone due guasti mi divonni e due, tre, non di più. Si era andato in Chivi a 20 sacchi di Utah mentre fasi da prima, forse aveva vinto il primo premio. Vabbè, se vuoi va, lascialo fare, lascialo fare peggio. Ma penso che sia spesato da Mediaset, giusto? Allora, tutto spesato, da chi era quella giacca che aveva, come era vestito, roba gioia. Tutto Mediaset ti dà. Ho letto che quello è un programma molto, molto cercato, capito? Poi, una volta che sei a contatto con Maria De Filippi, devi stare molto attento, perché ti ripeto, non sto scherzando, molti giocolieri, gente che praticamente non voleva niente, giusto così, passa due virilli e due palle, hanno fatto strada, capito? Intanto lui è andato lì, tutto spesato, e c'era già dalla, anche la settimana scorsa, tre settimane, perché ieri c'era la finale e ha vinto lui. Me ne sono accorto. Vabbè. Oh, c'ho un problema al PTT, Cla, del portatilino. Non hai microfono? Ah, buono il microfono. Adattatelo. Anche un microfono di baracchino va bene. Un microfono di baracchino che non sia molto grande. Le metti un jack dove c'è, ne hai visto che ne ha due. Uno è la colonia esterna e l'altro è il PTT. Sono due viri, di buono un jack di 10 minori e desidente Trento. Ora un po' Cla, 1, 2, 3, prova, mi senti? Sì, un po' cupa la voce, però già ti sento. Meglio quella della radio. Se questo è un microfono è un po' cupa, però ti sento, va bene. Vabbè, visto ogni tanto, cioè funziona, solo che li sto parlando e sembra che non funzioni, mi salta, non lo so. Io ne ho due o tre di microfoni, di portati. Bisogna vedere se vanno bene l'attacco, se non vanno bene da modificare. Quando ci vediamo tante settimane ti chiamo così ti riporto il computer. Adesso lunedì mi parlo, lunedì e martedì ci sono ancora i muratori, appena finiscono loro ti chiamo e così ti do il computer e te ne do quei microfoni e te li adatti. Portarsi che vadano bene per il tuo, per il mio non vanno bene, capito? Per quelli che io non vanno bene, ce li avevo da vecchi portatili, te li do e guarda, se va bene, sono buoni, sono della Intec tutte e due, c'hanno una buona capsula, se vanno bene, se no gli inverti la polarità, capito? Cosa me ne importa qua, già qui là, già sto qua, vedo un po' di, c'ho qualche capsulina piccolina a casa. Posso vanno bene quelli dei telefoni anche, vediamo un po', se ne metto una di quelle grandi, gliela adatto, già me lo modifico io, cosa me ne importa qua di microfoni? Dai, se no me lo porto a casa e mi controllo i PTT, se non c'è problema, tanto lo devo far finire, questo è il problema. Ma infatti, non c'è bisogno di comprarli, già ce li ho io, vedi, ho i microfoni. Ho tutta la via a bailare, ho mal di testa, c'ho allucinante. Mi sono andato in campagna, ma ne sono rientrato perché c'ho un mal di testa allucinante. Claro, io ci soffro di mal di testa, un bel. E io ho questa cervicale che mi sta ammazzando. Dugna lì, dopo pranzo mi viene questo dolore dietro al collo, mi prende tutta la nuca, ma guarda, non c'è Cristo, preso un moment, niente da fare. Adesso vado, faccio una visita a vedere se riusciamo a metterla a posto. Sarà il freddo, sarà... cosa vuoi ti dica? Stavo dicendo che allora, ho misurato le stazionarie a casa al 20, 1 e 2, invece nei canali alti, nel 45, 1 e 5, vanno bene, è vero? Alla grande, c'è problema. A casa vi dico, non qua. Sì, vanno bene, io già vanno bene. 1,5 nei canali alti, nel 45 è buonissimo, è buono, anche perché si è oltre il 40, quindi va bene. Lo fa anche a me, nel 45 c'ho 1,3, mentre sotto nei canali normali c'ho 1,1, capito? Non fa niente, non tocca nulla, già va bene. Mi siamo appena rientrati 10 minuti fa la campagna, 10-20 minuti fa. Non me, sono seguito di fumo innanzi, mamma mia, per carità. Quando accendo la stufa, ci metto la stufa alla cucina, quella stufa a legna fa anche la cucina, là. Come la accendi, purtroppo un po' di fumo esce sempre. Beh, normale, come quelli che hanno il caminetto. Se invece non mangiano, fanno il fumo le recci. Allora, fumo le lughignar, ma tu c'hai la stufa a pellet in casa, lì o i condizionatori? Ma dove? Lì dove sei adesso? Adesso sono a carbonazzi, c'è riscaldamento normale. Campagna tutto, c'è fotovoltaico con i termoconvettori. Ma caminetto ce l'avete, sì? E tre ve ne caminetti, non uno. Allora in uno cucini la pancetta, nell'altro sacchizzoni e nell'altro capocollo. Poi fate un altro e ci metti il pollo. Siamo dentro, non siamo qua, ci vai. Fuori sì, quello c'è fuori sì, quello è... ci sta un vitello dentro. Cazzo allucinante, vedi Antonello, il 23 ancora, col 4,40 mi sono spostato, cazzo, 6 canali mi splattera, allucinante, roba di spuria va lì su, 3.009, cazzo, ma anche altro niente Antonello. Sicuramente ti mandiamo di spurie. Stavo dicendo, domani no, comunque in settimana, mio fratello mi porta il telecomando originale di quel televisore. Non so se è proprio di quello, Vediamo un po' cosa succede. Esatto, tu provalo, se lui te lo porta, che magari ci sia quello, provalo. Perché secondo Gavino il problema è solo quello lì. Se ti fa entrare nel menu, tu vai lingua, subito, vai dove c'è scritto lingue, e cambi da spagnolo, metti italiano e confermi e poi riprovi il televisore. Per me è solo quello, non c'è altro, e mi fai sapere. No, forse tu l'hai compreso che io faccio il reset di fabbrica, lo riporto originale e poi lo rimposto tutto piano piano. E poi la ricerca automatica sempre di lui, lo attacchi all'antenna di casa che abbia segnale buono, capito? E lo ripristini, c'è scritto ripristino, prima installazione, vai. Samsung sono tutti così, dove c'è scritto ripristino, prima installazione, fai ok e se lo reinstalla lui dal capo, capito? E tu vedrai che la televisione funziona alla grande. Vabbè, la televisione funziona, che non mi dà quei canali lì, forse perché vogliono aggiornarti. Dovrei controllare nel mio, io ho un Panasonic 42 pollici, quello al plasma però. Però non è grosso, è sottile, eh? Pesantuccio, perché normale al plasma pesano. E quello funziona che è una bellezza, eh. Adesso controllo lì, mi sa che è 381 o 382 mi sa, no? Sì, sì, sì. Da 382 sino a 385 mi sembra che sia. Ti deve dare la scritta non più premium, ma ti deve inserire Sky. Inizia da 382 mi pare che sia Sky Sport 24, da lì, e poi sino al 385 c'è Sky Sport 1 HD, Sky Sport 2 HD, Sky Sport Serie A, capito? Ti deve dare la scritta Sky Sport, deve togliere in quei canali lì, deve esserci scritto Sky, non ci deve essere scritto Premium, capito? Perché è ancora memorizzato su Premium, come quello che c'avevo io. Questo io c'ho nella cameretta della radio, in sala radio. Non mi fa memorizzare Sky, perché non c'ha la... come si chiama? La card praticamente. E quindi non mi fa entrare. Ed è memorizzato ancora su Premium. Infatti gli ho dovuto mettere un decoder esterno per inserire la scheda. No, i miei tutti e tre hanno la cosa della cam, tutti e tre. E gli altri tre che c'ho io sì, ma quello che hai riparato tu non c'era la cam. No, quello è troppo vecchio, cra. E appunto, per vedere le partite gli ho dovuto inserire un decoder esterno piccolino, che ho comprato da MediaWorld, col porta... un portacam esterno praticamente c'ha, dai. Beh, vabbè, vediamo, dai, cra. Vediamo. Poi me ne hanno regalato uno tipo il tuo, quello che ho sistemato io. Non accendeva, cioè dava una schermata bianca, però non accendeva. L'ho aperto, visto che l'anomalia non ne aveva nella scheda. Dunque faceva un rumore la scheda di alimentazione, faceva drrrr, così. Non so chi va a perdere tempo a spenderci soldi sopra. L'ho smontato le schede, me ne ho staccato tutti i condensatori che erano buoni. Sicuramente quel televisore lì l'hanno riparato da poco, qualche anno fa. Beh, si vedevano i condensatori, erano puliti. E niente, ce l'ho buttato, un 32 pollici, no, forse 32 era. Però non aveva il decoder incorporato, c'era il digitale terrestre esterno, senza scheda. Sì, ma te l'ho fatto andare, già si vede che è nuovo. Evidentemente... c'è solo questo problema, capito? Che non ti fa entrare nel menu, ma se riesci ad avere il suo telecomando e iniziare a fare quella prova, se no si fa diversamente. Adesso intanto lunedì lo richiamo a Gavino. Tu fammi sapere, ti rimani aggiornato. Ecco, sono solo lavorando nella prossima settimana, non sto facendo un lavoro, capito? Se sono libero, vai, ci ritroviamo, andiamo. Io. Va bene. C'è Antonello sul 23. Se giro i canali sul 23 sino al... se scende la salita 5-6 canali col 4,40, ma già deduci un po' un baracchino. Si salta in aria l'azzurra e si ti chiude la bacone. Ma come mai? Chiedi a lui come mai, io non sento manco una mosca volare, non è molto distante da me Roberto Quadrato, eppure non mi ha mai disturbato, lui è che c'è i baracchini tutti con cacciavite girato al contrario. Roberto non si è più sentito. No, è impegnato, sono solo in officina, capito, il padre non sta più lavorando, quindi è impegnato col fratello, quasi tutti i giorni ci vediamo, sono passato anche quando è venerdì mattina. Anzi no, giovedì sono passato, venerdì non sono passato. Capito? Impegnato, ogni tanto li accende le radio, lascia scaldare e poi le spegne, ma giusto quando sta cenando così, per no. Non lo so, è così. C'ha qualche baracchino, Antonello, che fa questo difetto. Boh. Allucinante. Ragazzi, Uruguay 3,40. Uruguay 3,40, figurati tu, ci pone un baracchino normale, no? Che a te va, ripeto, città di portare i canali. Ma ascolta una cosa, Cla, ma quello è l'alimentatore della ZG che mi hai dato tu. Quello c'è, marcato c'è, vero? E allora, quello è marcato c'è, sì. Quelli che sono a trasformatore, che non sono switching, soprattutto di marca come la ZG, la Proxel e quelli vecchi, sono tutti a norma c'è. Ho capito. Ma c'è il baracchino o no? E questo è omologato, c'è la targhetta dietro, è omologato. Ma non è marcato c'è. E quindi non è omologato, è Melegatti quello. Fate un periodo di Melegatti, va. Ne ho quattro io così. Tutte e quattro con la targhetta dietro di omologazione, ma non sono a norma c'è. Figurati. Tranne, vabbè, gli altri che non hanno neanche omologazione, come il DAC, Cobra e tutti gli altri, ma per noi radioamatori non... la legge non è entrata in vigore, perché noi a livello sperimentale possiamo usare qualsiasi tipo di apparato. Beh, certo, ma tu hai sempre il 48 modificato, no? No, il 48 modificato io l'avevo l'avevo dato a Giampaolo, la buona mia Giampaolo Silvestro. Adesso ce l'ha Gianni Dischetto, mi sembra, quel baracchino. Io c'ho l'altro ancora più potente, il Cobra GTLX 250 da 100 watt con la pancia che c'ha un dissipatore tipo un amplificatore lineare. Ok, ma è colto? Sì, colto da 100 watt. Una radio eccezionale, ma eccezionale sai cosa vuol dire, con tante cime, però non lo uso dentro l'armadio. E poi io stavo pensando di farmi modificare il Mosco, ma usalo così quando ci sono propagazioni lì a 45, l'estate magari, con le due chiacchiere. Adesso vediamo, se non è molto la spesa. Non lo so, Lucarie, io l'ho preso così, avevo anche il Superstar 3009 modificato Colt. L'ho dato a Valerio per metterselo in macchina, capito? A Valerio di Alghero, che me l'aveva venduto Massimiliano. Bellissima radio anche quella, solo che stavo iniziando a averne troppi, e allora l'ho dato a Valerio che me l'aveva chiesto, l'ho dato a lui. Siccome era venuto a prendersi altra roba, gli ho dato anche quella. Uno me lo son tenuto, perché quando mi si girano i pibiristri e voglio usarlo ce l'ho, però ne ho uno che è madre di Dios, ma tu immaginati che in banda laterale da quasi 200 watt, perché quella è la versione GTL 250, la versione da, no GTL 200, la versione da 200 watt, in AM dagli stessi watt, in AM in FM dagli stessi watt del 440. Picchiata, io sto provando a vedere a Luigi Vulcano, io ho un portatile, una KP abbastanza nuovo, c'ha un ultimo processore anche, dico se c'ha un qualcosa di fare, siccome lui voleva un computer, ma va chiesto, se vuole fare un cambio, io do un PC con la borsa, alimentatore originale, nuovo, perché è nuovo, tutto aggiornato, è perfetto, se mi dà uno dei suoi baracchini. Proponiglielo a Gigi, tanto non sta più entrando, ne ha cantoni voi, Edu. Ma ti fai dare il 48, quello che usava lui nel camion, che il costo è, insomma, è più o meno quanto un computer, perché gli altri che c'ha, 8009 mi pare, ne ha tanti, quelli salgono di prezzo. Guarda, ti dico solo che quello che c'ho io, solo il baracchino 700 euro, solo il baracchino, più 300 euro di modifica, 350 euro, 1050 euro quello che c'ho io costato, il Cobra. Picchia, ti avevo battuato. Lo so, ma non ce l'ha nessuno quello. Ce l'hanno tutti questo Cobra, ma la versione normale, quello che c'ho io ti ho detto è da 200 watt, GTLX 200. Sotto la pancia, ti faccio la fotografia per 2 minuti che dentro l'armadio tutto in cellofanato, sia che si graffia, ci tengo moltissimo. E ti faccio la foto e te la mando, è da paura quella red. Sotto la pancia c'ha tutto le come un lineare da 500 watt da 30G, tutto sotto, c'ha tutto il dissipatore, tutto, e c'ha in banda laterale, c'ha 180 watt modulati, l'ho provato io in 10 metri, figurati, attaccato la direttiva in 10 metri, cazzo, a Giovatto, ma veramente molto bella, con un microfono normale, senza eco naturalmente, perché si può chiudere, aprire senza far l'ascolta, c'ha tutti i comandi che si possono aprire e chiudere, può diventare normale, può diventare colt, capito? Ma bello veramente, bello, tutto display in rosso col frequenzimetro, tutti i pomelli tutti illuminati, bellissimo, è tutto rosso. E tu hai pagato 1050 euro? 700 euro costa costata nuova quella radio, 690 euro per l'esattezza. Più prima di mandarveli ho fatto fare la modifica a Colt, perché c'aveva già l'eco, però non mi piaceva. Più la modifica a Colt, 1050 euro. Tu guardalo, se lo trovi al computer, TTLX 200, modello da 200 watt, scrivici, capito? Perché tutti c'hanno quella scritta, ma non sono qui. Modello da 200 watt, a bella tuburta, 690 euro. Che stavo attuato un cacchio alla fine, vabbè, la passione è quella, vabbè, qua ti volevo dire, ma è da base o veicolare? Veicolare è mai grande cantero, guarda, ti posso dire appena più grande del Magnum, perché c'ha questa pancia tutta piena di questo dissipatore, quanto è il Magnum, così veicolare, ma abbastanza grande, ma non l'ho preso adesso, no? C'hai un anno. Ho capito. Poi ne ha, ne ha uno Giomaria, cioè Giomaria Saturneco modificato a Colt, io l'ho sentito, insomma non te lo esce bene, quello è bello, quello è molto bello l'apparecchio. Sì, ma devi decidere, se vuoi un base ti prendi un base, e anche io ce l'avevo il Saturneco modificato, ma è un bel ragione, non me ne voglio nulla io, capito? Un baracchino, lo metti lì nella scrivania quando ti serve, lo stacchi e lo metti dentro l'armadio, io quelli baracchini ce li ho dentro l'armadio, base ho ottenuto solo il DAC, tutti i miei base li ho dati tutti a Gianni Capri 2, una parte a Roberto. Ho capito, e Roberto avrà anche quello che gli ho dato io, che fianchetti me l'aveva fatti Giulio Dollaro, però è uscito fiammante, ma se non mi ricordo male mi avevi verniciato il tappo su, però era un carraggio, un carraggio, l'avevo tutto sistemato, pulito bene, era uscito fiammante, proprio da vetrina, bello, e lui mi aveva dato il Typhoon, e ce l'ho tuttora, Sì, avevamo messo a posto, certo. Il Royce l'avevo tutto messo a posto lo stesso, tutto lucidato proprio da Roberto, passato tutto con la carta prima, poi quella piccola, dato il flatting sopra perché nel legno, lasciato asciugare, poi dato appena appena un colore leggermente più scuro, perché era leggermente più scuro. E anche quello l'ho dato a Gianni Capri 2. Gianni Capri 2 l'ha venduto a Antonello Barracuda, quello era il mio, lo stesso, il Royce. Sì, poi c'ho due baracchini vecchi, adesso non mi ricordo che modello sono, quelli vecchi, ma mi arrivano 30 anni, non lo so. E praticamente me l'ha caduta in terra e non accende. Accende ma non trasmette, non riceve. E la volta a Luigi Vulcano, come lo controllare, a quello che è morto di Cagliari, adesso non mi ricordo come si chiama. Sono nuovi, uno vabbè, uno proprio non accende, è morto, l'altro accende ma non trasmette, non riceve. E di Cagliari a cosa l'aveva dato a Roberto, quello di Oristano, che è morto? Quello più anziano, Cla. E io, vabbè, così sono comunque gli amici suoi che gli stanno baracchini. No, io quelli che ho dentro la madre sono tutti funzionanti. Tutti, ho messo tutto in ordine, il rosmetri con il rosmetri, i microfoni con il microfono, c'era un casino, ci ho buttato una busta di quelle nere, grandi, di Mondez, cavi, cavettini, roba non funzionava, sta giù un po' di tutto. Adesso ho messo tutto in ordine l'armadio qua, perché poi se inizio a spostarmi è meglio che abbia le cose già messe a posto, capito, se no perdo troppo tempo, se curento tutto alle gascette e si butto tutto. lasciamo in settimana, un promesso che deve venire uno di Alghero a avere la casa per la figlia, l'hanno letto a mia sorella, adesso vediamo. Se va in porto Luca, vendo subito, prendo le poche cose che sono rimaste e boh, mi trasferisco definitivamente, chi così non può scegliere l'andettore, l'andettore. Ma in campagna là o ad Alghero? No, oh, in campagna, a Monteoro. Ah, ho capito, beh certo, se stai bene, vabbè alla fine in campagna si sta sempre bene, tipo le due cani grossi in campagna, ma sicurezza. Lui, io dico campagna perché siamo in radio, dico campagna, ma poco ce n'è di campagna lì, molto poco. Se tu consideri quella casa all'atto, la valutazione dell'atto è stata valutata 550.000 euro. Quanto? 550.000 euro? 550.000 euro, finita, finita, anzi era da finire, quindi è stata presa, non te lo posso dire qua, eh. È stata presa in una certa maniera e quindi è chiaro che è stata pagata la metà, ma la valutazione di quella casa con quello che ha, so 200 metri quadri sotto e 200 metri quadri sopra, va a due verandi da 80 metri quadri. Picchietta. A voglia allora, dai, a voglia che ce n'è. Beh, poca campagna ci mi hai detto, così è. Appena apri il cancello, chi ci deve comando, c'è il cancello, c'è il vialetto, tutto illuminato, a destra all'ingresso c'è la piscina, c'è tutto il tutto a cemento, praticamente il terreno rimane leggermente più sopra, che ci sono un po' di alberi di frutta e un po' di olivetto, e la parte di sotto a scendere che ci sono altri alberi di frutta. Però il resto è tutto... tutto a cemento e pietra di sentino, per farti capire. No, è bellissimo, è molto molto bello, molto molto bello. Ho mandato anche le foto, ma solo forse della piscina. È molto bella, molto molto bella, molto. Però bisogna vendere qua. Per fare le cose che vanno fatte, capito? Che i soldi che io ho investito sono stati investiti per fare altro. Beh, claro, alla fine, cioè, se ne va la candela, perché no? Monte Oro, ma non è che rimane per caso vicino alla piscina di Monte Oro, no? No, no, si passa da Caniga, si passa da Caniga, Caniga, tu lasci praticamente Colombano, vai più avanti Colombano, giri a destra e sali. Il campo di calcio della Caniga lo conosci? Campetto di calcio è sotto, tu sali sopra, ti ho detto, se tu fai riferimento al ripetitore grande della RAI, quello da 120 metri forse anche di più, che metà è fatto in cemento armato e metà è fatto in ferro, ok, 50 metri tu prendi il binocolo e vedi la casa. Ho capito, eiaia. Vabbè. Comunque ancora ne hai, no, da aspettare. Ce la fai per quest'anno o anno nuovo? Io posso andare pure da oggi, c'è tutto e di più, non c'è nessun problema. Però le cose necessarie sono qua, hai capito? Poi io ti aiuto, non posso stare all'andettore. Non posso stare vai e vieni. Quindi bisogna vendere qua, appena vendo faccio l'unplay. E poi ti piace tutto là, antenne contro antenne? Non mi gioco manco Bicenne a fare barracconi, ma manco Bicenne mi gioco. Le antenne rimangono qua e poi ne le smonto. Lì metto solo una VHF, che sarà questa che c'è sul tetto a Carbonazzi. È molto probabilmente una verticale 5 bande, ma che non si veda in un punto dove non dà fastidio, dove, perché intanto lì, guarda, se andiamo a livello è più alta quella zona che questa, da giù di tutto. Io quando sono lì col portatilino parlo con tutta la Sardegna in voi in uno. Beh, proprio si immagina. Ho fatto una prova un giorno con la base magnetica, ho preso, c'è una tamburlana di ferro che, dei muratori, era viuda, la girata dall'altra parte, che chi se la piena viveva, girata dall'altra parte, messa la base magnetica sopra, e mi pare stavo parlando, mi avevo portato un baracchino, non so se era la 48, no, il Cobra era, col Cobra, e arrivavo, tu immaginati, all'Antonello 9.25-9.30, a Giulio arrivi 9.30. Sì, me lo posso immaginare, aspetta un attimino, là, che mi sta chiamando Marina, va. Eia. Così è. Marco, ci sei, Marco? Clà. Miau. Cucca. Poporino. Allora, come va? Sto bene. Ehi, amico, un po' andiamo a QTH, sopra. E tondo. Come sta tua mamma? E Antu, come sta? Se fa da brava e si comporta bene e mangia corretto già sta bene, ma se fa cazzate non sta bene. No, vabbè. Non sapevo che adesso salgo, là. Sono andato a salutare a Claudio se c'è. Cla, ci sei? Meno male che tu ce l'hai. Lo so Anto, però se io faccio di tutto per farla stare bene lì non mi ascolta, è inutile averla. Lo so, vabbè, qua c'è una situazione diversa. Lo so, chi ce l'ha beato lui, no? Però purtroppo, mia madre si è salvata tante volte in calcio d'angolo, e mia madre non è che si abbuccia bene. Se ti elenco quello che ha, ti mette la mano in testa. Non so, è viva forse per miracolo. Cosa vuoi fare? Non so se... scampato tante volte, questo è quello che è successo. Sì. L'ultima cosa che gli hanno messo è il pacemaker al cuore. Poi c'ha questo... E mi salta il PTT ogni tanto, ma sai che me lo porto a casa, lo apro, lo controllo, dai, mi ha rotto le scatole, mi ha rotto. Guardalo, controllalo. Sì, ogni tanto mi rendo conto che sto parlando, ma non sto parlando. Comunque qua è una bomba. Si pone un apparecchio un po' caretto e qua fa veramente. A me mi sembra meglio della consistenza. Lo so Antu. Vabbè, io sono andato a salutare a Claudio, o la Ursi. Perché l'ho detto che arrivavo subito. Quanto mi sta ascoltando, boh. Io me ne salgo a casa. Ci sentiamo Antu, dai. Poi magari entro il 27 al canale 23. Se ne è voglia. Dopo vediamo. Eia, ciao tu. Ciao. Attenzione Gio Maria, Graziano. Claudio, mi senti?